Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe resistent. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tout E dopo la sigla torna con la puntata di oggi Iannacci, questo personaggio a cui ho già dedicato 3 o 4 puntate e ce ne sono ancora 2 prima di esaurire il ciclo. Siamo arrivati al periodo, sarò brevissimo, il periodo romano. È il momento in cui all'RCA, la casa discografica per cui decide di incidere Iannacci, sentono la necessità di un tipo di cantautore di impostazione dilaniana e spingono per canzoni di innocuo impegno pacifista, così sempre il solito Manfredi. Il tentativo, già condotto con Tenco, andava ad appesantire il patetismo di Enzo, enfatizzandolo. Così i suoi singoli casi di sfigati diventavano sfighe collettive, universali, di masse di milioni di persone, senza neanche prospettive di liberazione possibile. Roba da starci male basta, dice Manfredi in questa sua prefazione al libro Enzo Iannacci Canzoni, edito da Lato Side, del costo di 3.500 lire, che ha un po' costituito il background per queste puntate. I dischi di Enzo si avvalgono per la prima volta all'RCA di arrangiamenti stupendi, di grande respiro orchestrale. Da un lato Enzo prova a cantare bene e perde i toni più assurdi della sua vocalità selvaggia, dall'altra, perdendo il gruppo, perde anche l'immediatezza del suo jazz, la freschezza delle invenzioni in sala di registrazione. Il pezzo più bello del periodo romano è nell'album Ragazzo Padre. In questo stesso album si possono trovare canzoni come E sapere, La giostra, El portave scrap de tennis, Donna che te dormivet, Una stessa che si chiamasse Maddalena, Facevi il palo in coppia con Valdi, Tite se no, Prendevi il treno e appunto quest'ultima, Ragazzo padre, che vi faccio ascoltare immediatamente. Buongiorno, m'è arrivata un mattino d'estate. S'è installata in salotto, mi ha chiesto di fumare. Ti lascio immaginare com'è andata a finire. Sono ritrovato un figlio da nutrire, sono un ragazzo, padre, chiedo la carità. Io sono un peccatore per questa società. Sono un ragazzo, padre, non so più dove andare. Ho chiesto anche in comune, non mi lasciano entrare. Sono 20 anni che giro, il figlio è quasi grande, data la stagione bisogna provvedere, perché ieri sera al parco faceva tanto freddo, ci siamo stretti forte, forte, e siamo finiti dentro. Sono un ragazzo, padre, chiedo la carità. Io sono un peccatore per questa società. Sono un ragazzo, padre, non so più dove andare. Ho chiesto anche in comune, vai, sei un ragazzo, padre, chiedi la carità. Tutti i ragazzi, padre, chiedo la carità. No, non è peccato, chiede la carità. Tutti i ragazzi, padre, chiedo la carità. E dopo questa esperienza romana alla RCA con Ragazzo Padre, Enzo decide di fondare una casa discografica per conto suo, assieme anche a Manfredi e ad altri. Il primo disco si chiamò Disco dell'Angoscia ed era tutto un programma. Era la storia di un incoma profondo. Fu Enzo ad infonderci un po' d'allegria con uno degli album più belli della sua vita, quelli che inciso nel gennaio del 1975. Il pezzo guida dell'album ebbe una vita tribolatissima. Ne furono fatte più o meno 5 versioni. Una sull'LP, circa 2 su 45 giri, che avrebbero dovuto essere ben accetta alla RAI e non lo furono. Un'altra ancora che avrebbe dovuto essere ben accetta all'Ina Wertmüller, che la inserì nel film Pasqualino Sette Bellezze. Un'altra addirittura in inglese per la versione americana del film, sempre cantato ovviamente da Enzo, e che per la sua unicità avrebbe meritato di essere diffusa anche qua e che invece risuonò a lungo per le strade di Brooklyn senza che l'RCE, nostra cosiddetta distributrice, gliene fregasse niente. Nonostante tutti gli sforzi che facevamo, il disco restava clandestino. Ci pensarono le neonate Radio Libere, che allora erano proprio libere, e così in poco tempo Milano fu bombardata da quelli che divenne la vera e propria sigla di almeno una dozzina di Radio Libere, e per libera scelta, cioè senza nostra pressione. Ed è proprio da questo pezzo abbastanza chilometrico che io vi faccio ascoltare il testo omonimo, preceduto però da un piccolo preamboletto che si chiama, l'avrete già sentito altre volte, La Télévision. La Télévision, la gauna forza de Léon. La Télévision, la paura de nessun. La Télévision, la t'indurmento men cuyon. Paf. Mm. quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 3 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. Quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che accendono un cielo la Madonna perché hanno un nipote che sta morendo, oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cielo, oh yeah, oh. Quelli che Mussolini è dentro di noi, oh yeah. Quelli che votano a destra perché Almirante sparla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. No. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah. Quelli che non tengono il vino, oh yeah. Quelli che non ci risultano, oh yeah, oh yeah. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah, intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda fin qui, oh yeah, no. Quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, no. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeah, oh yeah. Quelli che ti vogliono portare a mangiare le rane, oh yeah. Quelli che sono soltanto le 2 di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che non ci sentivano, oh yeah. Quelli diversi dagli altri, oh yeah. Quelli che puttana miseria, oh yeah. Quelli che quando perde l'Inter o il Milan dicono che in fondo è una partita di calcio e poi vanno a casa e picchiano i figli, oh yeah. Quelli che dicono che i soldi non sono tutto nella vita, oh yeah. Quelli che qui è tutto un casino, oh yeah. Quelli che per principio non per i soldi, oh yeah. Quelli che l'ha detto il telegiornale, oh yeah. quelli che lo Stato può, che nella misura in cui, che nell'ottica, oh yeah, quelli che hanno una missione da compiere, oh yeah, no Maria. Quelli che sono onesti fino a un certo punto, oh yeah, quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che aspettano il tram, né ridendo né scherzando, oh yeah, no, no, Maria. Quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio, oh yeah. Quelli che non si divertono mai neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che a teatro vanno nelle ultime file per non disturbare, oh yeah. Quelli di Roma. Quelli che non c'erano, quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito e non sanno che cavolo fanno. Oh yeah, oh Maria. Quelli lì. Era la veramente chilometrica quelli che. L'album successivo, sempre inciso all'ultima spiaggia, conteneva un pezzo, dice sempre Manfredi, che sarebbe stato di grande riuscita se non fossimo stati ridotti ormai quasi allo stremo dalle continue censure. Il pezzo era Rido. La prima volta che sentii Enzo suonarlo al piano mi esaltai, perché più schizzo di così pensai non si poteva. Enzo cantava: rido, mi piscio sotto e rido, mi brucio il culo e rido, quando mi tira rido. Il testo illuminava anche il lapidario Vivere o ridere, messo in copertina. Purtroppo scomparve la piscia, scomparve il quando mi tira, scomparve praticamente tutto, tranne le bellissime risate tese ed il gatto sulle strisce. Il tutto rimase astratto, troppo astratto, e la risata perse di corrosività. Rido, rido di tutto, rido, non faccio apposta rido, questo è il mio mestiere. Rido, se cadete mi rido, perdo un cognato rido, è quasi un mio dovere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia rido e poi non rido più. Rido, nulla tenente rido, per il tuo bene rido, l'amor non sa tacere. Rido, son sempre in rosso rido, faccio la fuga e rido, qualcuno deve avere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia rido e poi non rido. Ha ha! casa rido, non si può mai sapere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, chiude la ditta, rido, tolgo il disturbo e rido e poi non rido più. Rido, quando mi pare rido, quando mi gira rido e poi non rido più. Rido, se gira l'onda rido, se cambia ritmo rido, si salvi sempre. Chi può? Era Rido, e ricordandomi che questa puntata viene replicata di sabato, vi mando come al solito un pezzo leggero. Il pezzo, e anche di attualità, si chiama A Lourdes. Cantano Cocchi e Renato, ma è di Iannacci. A Lourdes. Dove? A Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. Su dal pullman, giù dal pullman. Oh, che bello andare tutti quanti a Lourdes. A Lourdes. C'è, oh, c'è il... C'è una grotta, la fontana, c'è perfino, oh, l'altalena. Tutto organizzato. A Lourdes, a Lourdes. Che bello, a Lourdes, a Lourdes. Buttato in acqua per guarire il dente. Sono uscito che c'avevo un recipiente. Miracolo! A Lourdes, a Lourdes. Se ne mangiare di me. Ciac, ciac. Cosa che di me? Nella grotta, troppo assai miracolosa, mi è cresciuta un'altra cosa. Qua di fianco, vedi? Qua. Tirala fuori. Guarda, guarda. Tirala fuori. A Lourdes, a Lourdes. Che fenomeno. A Lourdes. A miracolo. A Lourdes, a Lourdes. Sono entrato con una stampella. Sono uscito che c'avevo una mammella. A Lourdes, oh, oh, mia, che piscina. Grazie di tutto ciò. Grazie di tutto ciò. Ringrazio. A Lourdes. Non è un fatto di ignoranza, è solo un fatto di credenza. La credenza tutta mia, piena di chincaglieria. Di Lourdes, di Lourdes, di Lourdes. Ciappate chi? Ciappata, ciappata, ciap, ciap. O nell'acqua ci ciappate, ciappate, ciappate, ciap. Nella piscina ciap. Cifete, cifete, ciao. Ha un vecchio credente con sei dita che si è buttato nella vasca, si è gonfiata la cichita. Lourdes, Lourdes, Lourdes. La fotografia della miracologia. Oh, mi tuffo di piedi o di testa? Vediamo un po'. I piedi non ci sono, allora di testa. Buttati come ti pare. A Lourdes. Sono qui già da un bel mese. Sono un uomo e ho le mie cose. Miracolato. A Lourdes. Printi tanto, tanto, tanto, tanto. L'ingegnera si è tuffata, ne è uscita un'avvocata. Ah, miracolo dell'ingegneria. Tutta l'acqua che ho bevuta non l'ho fatto di geruta. Cozze, pesce fresca, artigli, becchi, pastiglie per indovinare, salti in bocca alla portana. Scarafaggi, scorpioni. l'immagine dei santi raffinati. Pesce persico, loggia, cozze, piccole incisioni, grandi incisioni, long plane, allur, allur, allur, compresa nella spesa l'apparizione della piccola colazione, allur, allur, tutti balur, allur, allur, allur, allur, allur, allur, allur, Chiudiamo la trasmissione di oggi con un monologo tratto da quelli che il monologo si chiama La Borsa Valori ed è sempre Enzo Iannacci. Listino prezzi Borsa Valori di Milano, aggiunta dei dividendi, obiettivabili gli aggiuntandi a partire da domani. Panino, modello Muratorino, ingredienti, pane e sudorino, lire 400. Numero 2, valigia e fibra cartonata, modello Viaggi senza ritorno, lire 28.000. Numero 40 metri, spago tipo medio forte, per valigia di cui sopra, modello battipaglia normale, lire 1200. Modello Frivoli lusso, lire 1800. Villa extra lusso, vista stabilimenti Fiat Mirafiori, con tutti i comfort, lire 30.000. Con piscina, lire 31.000. Con silicosi, lire 20.000. Con mutilazione da fresa, lire 1000. Con sicura e rapida evoluzione schizzoide, lire 40.000. Con delirium tremens, lire 50.000. Con ulcera gastrica, piccola curva, sicuramente cancerigna, lire 100.000. Mirage, modello ratto maldestro, lire 32.000. Tupolev, tipo celebrazioni multibiennali, lire 14.000. Tipo Olavaola spacca, lire 11.000. Concord, per lavaggio strade marciapiedi, lire 71.000. Si avverte l'aspettabile clientela che l'operazione viene effettuata dall'alto. Modello, fatele con le vostre manine, qualcosina in più. In caso di maltempo l'ostaggio verrà rilasciato lo stesso. Bene, con questa annotazione sugli ostaggi direi che si può chiudere anche la puntata di oggi di Cabaret. L'appuntamento è come al solito mercoledì alle ore 16 e al sabato alle ore 21. Senz'altro quindi mandiamo la sigla e a risentirci. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.